Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Alcune ricerche dimostrano come a volte per convincere un consumatore a scegliere un prodotto piuttosto che un altro sia sufficiente dichiarare che si tratti di un prodotto rispettoso dell'ambiente. Nel suo libro Intelligenza ecologica, Daniel Goleman spiega come per diventare consumatori consapevoli di un mercato ecosostenibile sia necessario un radicale cambiamento cognitivo. Questi asciugamani sono stati prodotti in condizioni di lavoro eque, in un ambiente lavorativo sicuro e salubre, dove non vengono operate discriminazioni e la gestione si è impegnata a rispettare i diritti e la dignità dei lavoratori. Questo messaggio, stampato sotto il logo Fair and Square, corretto ed equo, era scritto sulle etichette di alcuni asciugamani venduti all'ABC Home Furnishing, un negozio di articoli per la casa di Manhattan, e ha dimostrato di avere un notevole potere di mercato. Su un periodo di 5 mesi, in confronto agli asciugamani che non esponevano questa semplice informazione, quelli di Fair and Square hanno registrato un costante incremento nelle vendite. Quando le etichette sono state spostate su altri asciugamani dalle caratteristiche equivalenti, il vantaggio di mercato, con un aumento dell'11% nelle vendite e del 5% nel ricavato, le ha seguite di pari passo. Ma la cosa più sorprendente è che quando il prezzo degli asciugamani è aumentato, le vendite sono cresciute più rapidamente. Un incremento del 10% nel prezzo ha portato agli asciugamani Fair and Square il 20% in più di vendite e un aumento del prezzo del 20% il 62% di vendite in più, con un'impennata del 18% nel ricavato. I due politologi di Harvard che hanno condotto l'esperimento, Michael Iscox e Nicola Smith, ipotizzano che il prezzo maggiorato dava ancor più credibilità alle affermazioni secondo le quali questi asciugamani rispettavano parametri di fabbricazione superiori. I risultati, sostengono i ricercatori, dimostrano che c'è un ampio mercato non sfruttato per questo genere di merci etiche. Naturalmente va anche detto che l'ABC Home Furnishings è un negozio di lusso. I suoi clienti ricadono in quella fascia di marketing nota in alcuni circoli come quella dei ricchi sensibili al prezzo, persone che identificano l'etichetta con la qualità del prodotto e che sono disposte a sborsare fino al doppio del prezzo di un oggetto se quest'ultimo risponde alle loro esigenze. Ma non è forse vero, potrebbe ribattere uno scettico, che la stragrande maggioranza dei consumatori è più interessata al prezzo che non all'etichetta? I dati raccolti in altri punti vendita, meno esclusivi, sono eterogenei. In un esperimento condotto dai ricercatori dell'Oregon State University presso i magazzini Home Depot, i prodotti con etichette ecologiche hanno surclassato di 2-1 nelle vendite quelli che ne erano privi quando i prezzi erano identici e di poco meno di 2-1 quando i prodotti verdi costavano il 2% in più. Ma in un grande magazzino in un quartiere operaio di Detroit i risultati si sono rivelati ben differenti. Una pila di calze era etichettata come prodotta in buone condizioni di lavoro, mentre un'altra non aveva nessun cartellino del genere. I prezzi delle due pile di calze sono stati variati. Circa un terzo dei clienti ha pagato fino al 40% in più per le calze che rispettavano i parametri etici. Ma quando le calze sono state vendute al medesimo prezzo, l'etichetta virtuosa non ha avuto nessun effetto. Anche in questo caso, i ricercatori ipotizzano che il prezzo più alto abbia reso l'affermazione più credibile. Il fatto che l'ecovirtù aggiunga valore ai prodotti trova supporto in alcuni recenti studi sul cervello. In base alle sue ricerche sul processo decisionale del consumatore, la neuroeconomista del Caltech Ilk Plasman sostiene che le nostre idee sul prezzo creano un'aspettativa che influenza poi la nostra esperienza e le nostre decisioni d'acquisto. Quando scegliamo una marca, l'attività del nostro cervello riflette il pregiudizio secondo cui il prezzo corrisponderebbe alla qualità. Un prezzo più basso fa diminuire le nostre aspettative nei confronti di un prodotto, mentre un prezzo più alto le fa crescere. Quando in un esperimento la Plasman ha offerto ad alcuni volontari quello che pensavano fosse un vino da discount, essi lo hanno apprezzato di meno rispetto a un presunto vino di fascia di prezzo elevata, anche se di fatto il contenuto dei due bicchieri era il medesimo. Il prezzo ci fa percepire più buono il gusto di un vino, nota la Plasman, ma questo è il frutto di un pregiudizio cognitivo che trova le sue origini nei calcoli del mio cervello, che mi dicono di aspettarmi che il vino sia migliore e che, quindi, plasmano la mia esperienza, così che ciò che bevo viene di fatto ad avere un gusto migliore. È possibile che questa stessa sorta di operazioni cognitive valga anche per un giudizio ecologico? La Plasman pensa di sì. Potrebbe anche essere un concetto morale, come «questo prodotto è negativo per l'ambiente», a guidare la nostra mente. Come ben sa ogni manager aziendale, la reputazione di un prodotto di una determinata marca può salire o scendere, oppure può essere effimera. Come mostrano studi neuroeconomici sulle preferenze, una singola nota di negatività o di positività può far cambiare la nostra intera decisione d'acquisto. I pregiudizi e le aspettative guidano l'attività del cervello, che a sua volta plasma ciò che facciamo. Il passaggio dall'etichetta allo stato mentale che ci spinge a sceglierla ha profonde implicazioni nelle preferenze di marca. In quest'ottica, le feroci battaglie di marketing tra marche rivali vengono combattute all'interno dei circuiti neurali degli acquirenti, dove il momento decisivo sopraggiunge in quel paio di secondi in cui un cliente contempla una scatola di detersivo in polvere. La maggior parte delle persone non compra il prodotto più economico, sottolinea O'Rourke, paga invece di più per ciò che percepisce come buono e prevede che le preoccupazioni ambientali, sanitarie e sociali entreranno nella matrice di scelta della marca a fianco del prezzo e della qualità. Tuttavia, un sondaggio condotto dalla Marks & Spencer, il colosso britannico della vendita al dettaglio, su 25.000 clienti di ogni ceto economico, ha rivelato che circa un quarto dei compratori non è semplicemente interessato al fatto che un oggetto abbia o meno un ottimo pedigree. Il 10%, dal canto opposto, cambierebbe le proprie abitudini per acquistare un prodotto più verde. Ma questi singoli dati, se presi singolarmente, suggeriscono che gli indifferenti superano gli interessati in un rapporto numerico di 2 o 3 a 1. Il gruppo più significativo nel sondaggio è costituito dalla stragrande maggioranza dei consumatori, che si collocano più o meno a metà strada fra i due estremi. All'incirca i due terzi dei clienti sono propensi alle scelte verdi, ma vogliono che la decisione sia facile. Oppure sono vagamente interessati ai problemi etici, ma hanno l'impressione che le preferenze individuali nel fare la spesa non contino praticamente nulla nell'impatto ambientale. La trasparenza radicale si rivolge a questi due terzi dei consumatori, rendendo più semplici le scelte ecocompatibili. Essa, infatti, presenta agli acquirenti un chiaro riassunto dei dati rilevanti di un prodotto proprio mentre lo stanno tenendo fra le mani. I due terzi di persone che sono interessate, ma che desiderano avere informazioni senza sforzarsi troppo, rappresentano l'equivalente degli elettori indecisi. Sono i consumatori che potrebbero essere incoraggiati a fare acquisti in linea con i loro valori, ma che, non facendolo, interrompono il collegamento domanda-offerta tra le scelte dei compratori e i prodotti forniti. Se le aziende non hanno nessun reale vantaggio di mercato nel praticare la correttezza ecologica, hanno ancor meno motivi per cambiare il modo in cui fabbricano e trasportano i prodotti. Il successo nel trasformare la trasparenza di mercato in un fenomeno di massa dipenderà da quanti di questi consumatori indecisi inizieranno a fare appello alla loro intelligenza ecologica. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Daniel Goleman, Intelligenza ecologica, Rizzoli Editore, 322 pagine, 19 euro. Ayaan Hirsi Ali, scrittrice olandese di origini somale, vive da anni in esilio per avere più volte denunciato le violenze sulle donne commesse nelle comunità islamiche. Il rifiuto da parte dell'Olanda di difendere Ayaan dalle minacce degli integralisti è solo il caso più estremo di una realtà ormai evidente. L'estrema tolleranza verso ogni forma di pensiero impedisce di fatto al mondo occidentale di difendere i diritti delle donne islamiche. È appena uscito il romanzo di una scrittrice iraniana, Chaadort Javanna, La Muta, che denuncia l'oppressione delle donne nel regime iraniano. Così come altri romanzi di scrittrici islamiche divenuti celebri, come ad esempio Azar Nafisi, il cui Leggere Lolita a Teheran ha fatto il giro del mondo. Sono scrittrici coraggiose, che scrivono dall'esilio cose che nel loro paese non sarebbero mai permesse, cose che anche i maschi del loro paese, che vivono in esilio, non osano denunciare. Perché un conto è sapere che nei paesi dove è in vigore la Sharia, l'età del matrimonio è a 9 anni per le donne, che naturalmente non hanno il diritto al divorzio, ma possono solo essere ripudiate, che non hanno la custodia dei figli e sono costrette a portare il velo. Un conto è che una donna che vive questa oppressione la racconti con le sue parole, che una donna ci faccia entrare dentro a queste vite oppresse, ci faccia capire cosa significa vivere senza diritti, senza dignità. Queste scrittrici pagano un caro prezzo per il loro coraggio, perché quasi sempre, anche nei luoghi di esilio, sono minacciate di morte dagli islamici lì residenti. Perché le forti correnti di immigrazione hanno portato questo risultato paradossale, che non esiste più un paese dell'Occidente in cui un perseguitato dalla fatwa islamica possa vivere tranquillo. Ma le difficoltà a parlare, a dire qual è veramente la situazione delle donne in paesi come l'Afghanistan, in cui periodicamente i talebani uccidono le bambine che osano frequentare la scuola, non è solo dovuta alla presenza di gruppi fondamentalisti nelle nostre città arrivati con il flusso migratorio. Le difficoltà stanno nascendo anche all'interno della nostra libertaria cultura occidentale, anzi, in uno dei paesi europei che è sempre stato considerato all'avanguardia per la difesa della libertà di pensiero e di parola, cioè l'Olanda. La situazione delle donne islamiche è molto pesante. Lo rivela innanzitutto la sorte toccata all'intellettuale somala Ayan Hirsi Ali, che aveva denunciato l'infelice condizione delle donne islamiche anche nel paese di immigrazione, l'Olanda, e che, minacciata di morte, è stata costretta a cercare rifugio negli Stati Uniti, perché l'Olanda non la considerava ospite gradita. Perché si è arrivati a questo punto? È stata proprio l'attitudine a un'estrema tolleranza verso tutte le forme di pensiero, verso tutti i valori e verso tutte le etiche, a impedire agli olandesi di difendere la scrittrice somala. Se ognuno può fare quello che vuole, credere a ciò che vuole, se non ci sono dei valori comuni da difendere e ai quali ci si può appellare, arriviamo all'estremo opposto, che nella progressista Olanda, nel paese dove sono stati per la prima volta accettati i diritti degli omosessuali al matrimonio, l'eutanasia, la riproduzione assistita per gli omosessuali, nel paese cioè dove tutto sembrava possibile, le donne islamiche non sono protette dai soprusi della Sharia. In nome di una malintesa libertà di comportarsi, ognuno secondo la sua cultura, i suoi valori, si permette nelle enclave islamiche, ormai presenza sempre più importante nelle città olandesi, che le donne siano sottoposte alle leggi islamiche e non a quelle olandesi. Girano velate, non conoscono la libertà di pensiero e di parola, non possono scegliere di studiare, lavorare, avere dei figli. Lo aveva denunciato per prima Ayan Hirsi Ali, seppur facendo una serie di errori e di esagerazioni. Secondo lei la condizione delle donne europee fino al Settecento era uguale a quella delle donne islamiche oggi. L'oppressione religiosa era la stessa e solo l'illuminismo le aveva liberate. «Lasciateci avere il nostro illuminismo», scriveva, ignorando che la concezione della donna nel cristianesimo è ben diversa da quella della tradizione islamica fin dalle origini. Ma la sua denuncia andava ascoltata. Davanti a questo gravissimo problema, l'Olanda, rifiutandosi di difendere Ayan Hirsi Ali, ha rivelato come l'eccessiva tolleranza e il relativismo dei valori hanno ormai distrutto ogni senso di identità culturale, ogni punto di riferimento condiviso da tutti, a cui fare riferimento in una situazione conflittuale come questa. Il caso olandese rivela i limiti del multiculturalismo, di un'apertura all'immigrazione senza proposta di assimilazione, senza consapevolezza di avere una cultura propria da difendere e da proporre agli immigrati. Ancora una volta, in questa apparente vittoria della tolleranza e del rispetto del diverso, sono le donne a pagare il prezzo più alto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giulio Meotti «Perché l'Occidente non sa difendere le donne islamiche» dal Riformista del 28 maggio. Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Enzo è un piccolo bastardino che nel libro L'arte di correre sotto la pioggia racconta in prima persona la storia della sua amicizia con il proprietario Danny, con il quale condivide la passione per la TV e per le automobili. Un'amicizia che a volte viene messa a dura prova, come quel giorno in cui Eve, la moglie di Danny, per errore lo lasciò a casa da solo per qualche giorno. Quando all'improvviso mi ritrovai chiuso a chiave in casa, non mi lasciai prendere dal panico. Non tentai un'ipercorrezione. né restai paralizzato. Feci velocemente il punto della situazione e trassi queste conclusioni. Eve era malata e forse la malattia stava minando la sua capacità di giudizio, per cui era probabile che non tornasse a riprendermi. Danny sarebbe rientrato il terzo giorno, 2 notti dopo. Sono un cane e so come si digiuna. Fa parte del patrimonio genetico che tanto disprezzo. Quando Dio ha dotato gli uomini di tutta quell'intelligenza, li ha privati dei cuscinetti ai piedi e li ha resi vulnerabili alla salmonella. Quando ha negato ai cani l'uso dei pollici, ha concesso loro la capacità di sopravvivere per lunghi periodi senza cibo. Mentre un pollice, un solo misero pollice, sarebbe stato molto utile in quel momento, permettendomi di ruotare uno stupido pomello e fuggire, il secondo strumento in ordine di importanza e l'unico a mia disposizione era la capacità di fare a meno del nutrimento. Per 3 giorni feci attenzione a razionare l'acqua della tazza del bagno. Vagai per la casa annusando la fessura sotto la porta della dispensa e sognando una grossa ciotola di croccantini, ripulendo ogni angolo dai resti polverosi di cereali caduti a zoe qua e là. Urinai e defecai sul tappetino vicino alla porta, sul retro, accanto alla lavatrice. Non mi lasciai prendere dal panico. Durante la seconda notte, dopo circa 40 ore di solitudine, cominciai, credo, ad avere delle allucinazioni. Mentre leccavo le gambe del seggiolone di Zoe, su cui avevo scoperto delle gocce di yogurt cadute molto tempo prima, senza volerlo risvegliai i miei succhi gastrici con uno sgradevole brontolio e sentii un rumore che veniva dalla sua camera. Quando andai a controllare, vidi una cosa terrificante. Uno dei suoi animaletti di peluche si muoveva da solo per la stanza. Era la zebra di peluche che le avevano spedito i nonni paterni, che, per quanto spesso li vedevamo a Seattle, potevano benissimo essere di peluche anche loro. Non mi era mai piaciuta quella zebra. La consideravo una specie di rivale nella corsa all'affetto di Zoe. A essere sincero, mi stupiva vederla in casa, perché era uno dei pupazzi preferiti di Zoe. Se la portava ovunque, persino a letto, tanto che alla base della testa il tessuto era logoro, quasi rigato. Stentavo a credere che Eve non l'avesse infilata in borsa insieme alle altre cose, ma immagino fosse così fuori di sé, così in preda al dolore, da dimenticare la zebra. L'animale, che ora aveva preso vita, non mi disse niente, ma appena mi vide, si lanciò in un ballo tutto scatti e contorsioni, che culminò con lui che spingeva a più riprese l'inguine castrato in faccia a una povera Barbie innocente. Questo mi fece molto arrabbiare. Perciò mi misi a ringhiare contro la zebra molestatrice, ma quella si limitò a sorridermi e proseguì lo stupro, questa volta prendendosela con una rana di peluche, che montò da dietro e cavalcò a pelo, zoccoli all'aria come un domatore di cavalli, gridando «Yuhu!». Tallonai quell'animale bastardo e maligno mentre umiliava e violentava uno a uno tutti i giocattoli di Zoe. Alla fine non riuscii più a resistere e, digrignando i denti, feci per aggredirlo, per porre termine una volta per tutte a quella farsa brutale. Ma prima che riuscissi a stringere la folle zebra tra le fauci, quella smise di ballare e mi si parò davanti in piedi sulle sole zampe posteriori. Poi portò le zampe anteriori sulla cucitura che le correva lungo la pancia e la strappò. La sua stessa cucitura. La squarciò finché non riuscì a infilarci le zampe dentro e tirar via l'imbottitura. E cucitura dopo cucitura, manciata dopo manciata, continuò a ridursi a brandelli, finché non espulse tutto il sangue del demone che le aveva dato vita, qualunque fosse la sua natura. E di lei non rimase altro che un mucchio di imbottitura e di stoffa, che ondeggiava sul pavimento, pulsando come un cuore strappato da un petto, debole, sempre più debole, fino a cessare del tutto. Uscii dalla camera di Zoe traumatizzato, sperando che ciò che avevo visto fosse frutto della mia immaginazione, una visione prodotta da un calo di glucosio nel sangue, ma sapevo, in qualche modo, che non era una visione. Era tutto vero. Era accaduto qualcosa di tremendo. Il pomeriggio del giorno seguente tornò Danny. Sentii arrivare il taxi e guardai Danny scaricare i bagagli e portarli fino alla porta sul retro. Non volevo sembrare troppo entusiasta di vederlo, ma al tempo stesso ero preoccupato per quello che avevo fatto al tappetino. Perciò abbaiai un paio di volte per metterlo in guardia. Dalla finestra vidi che aveva un'espressione stupita. Tirò fuori le chiavi e aprì la porta. E io cercai di bloccarlo, ma fu troppo veloce e dal tappetino si levò un suono vischioso. Danny si guardò i piedi e, saltellando, entrò cauto nella stanza. Che diavolo? Che ci fai qui? Diede un'occhiata alla cucina. Niente di strano, niente che fosse fuori posto, a parte me. Mi riempì d'acqua la ciotola e mi diede dei croccantini che mangiai troppo in fretta e non riuscii a gustarmi, ma che almeno mi riempirono il buco che avevo nello stomaco. Mi guardò mangiare senza dire una parola, furioso. E dopo poco, nella veranda sul retro, comparvero Yves e Zoe. Danny spalancò la porta. «Incredibile», disse con voce amara. «Sei incredibile». «Stavo male», spiegò Yves entrando in casa con Zoe che le si nascondeva dietro. «Non ragionavo. Poteva anche morire. Ma non è morto. Però sarebbe potuto accadere», insiste Danny. «Non ho mai sentito niente di così stupido. Me ne freghista, del tutto incosciente». «Stavo male», gli rispose secca Yves. «Non ragionavo». «Tu non ragioni e la gente muore, i cani muoiono». «Non ce la faccio più», gridò, vacillando come un alberello in una giornata di vento. Zoe le sbucò da dietro e scomparve dentro casa. «Non fai altro che andartene e lasciarmi sola a prendermi cura di Zoe e di Enzo. Ma io non ce la faccio, è troppo per me. Riesco a malapena a badare a me stessa». «Dovevi chiamare Mike o lasciarlo in un canile, qualsiasi cosa, ma non cercare di ucciderlo». Sentii piangere e mi guardai intorno. Zoe era in piedi sulla porta che dava sul corridoio, in lacrime. Yves spinse da parte Danny, andò da lei e le si inginocchiò davanti. «Oh, piccola, mi dispiace se stiamo litigando. Non lo facciamo più, non piangere, ti prego». «I miei animali», piagnucolò Zoe. «Che è successo ai tuoi animali?» Yves percorse il corridoio tenendo Zoe per mano. Danny le seguì. Io restai dov'ero. Non avevo intenzione di avvicinarmi alla stanza in cui avevo assistito alle danze della zebra maniaca. Non volevo vederla. All'improvviso sentii rimbombare dei passi. Mi acquattai accanto alla porta, sul retro, e Danny entrò in cucina come una furia. Sembrava esplodere dalla rabbia, gli occhi fissi su di me e le mascelle serrate. «Stupido cane che non sei altro!» ringhiò. Poi mi afferrò per la collottola e prese a strattonarmi. Persi le forze, terrorizzato. Non mi aveva mai trattato così prima. Mi trascinò dalla cucina per tutto il corridoio fino alla stanza di Zoe, dove lei, scioccata, se ne stava seduta per terra in mezzo al finimondo. Le sue bambole, i suoi animali erano stati fatti a pezzi, eviscerati. Un disastro totale. Un vero massacro. Potevo solo supporre che la zebra indemoniata si fosse riassemblata e avesse distrutto gli altri animali dopo che me ne ero andato. Avrei dovuto eliminarla quando ne avevo avuto la possibilità. Avrei dovuto mangiarmela, a costo di lasciarci la pelle. «Prenderemo degli animali nuovi, piccola», disse Yves a Zoe. «Domani andiamo a comprarli». Con quanta più delicatezza possibile, avanzai cauto fino a Zoe che, tristissima, era seduta a terra tra le rovine del suo mondo fantastico, il mento premuto contro il petto, le lacrime che le rigavano le guance. Sentivo il suo dolore perché il suo mondo fantastico lo conoscevo bene. Strisciai fino a lei e misi il naso accanto alla sua coscia, abbronzata dal sole dell'estate. Poi sollevai appena le sopracciglia, quasi a chiederle se avrebbe mai potuto perdonarmi di non aver protetto i suoi animali. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal romanzo di Garth Stein, L'arte di correre sotto la pioggia, PM Editore, 304 pagine, 17 euro.